La livella sarebbe quello strumento che usano i muratori per livellare i muri. Dunque, ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuna l'è da fa che sta crianza, ognuna ha da tre che sto pazire. Ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza anch'io ci vado e con dei fiori adorno il logolo marmorie e si Vicenze. Stando mi è capitata un'avventura, dopo d'aver compiuto il triste omaggio, madonna se ci pensa che paura, ma poi facete un'anima e coraggio. Ho fatto è questo, statevi a sentire. S'avvicinava allora da chiusura, io Toma stava per uscire buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovico e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. O stemma che ha corona in coppa a tutte, sotto una croce fatta i lambadine, tre mazzerosi con una lista a lutte, cannella, cannalotte e sei lupine. Proprio attaccata ad un bestu signore, c'è stata una tomba piccerella, abbandonata, senza manco un fiore, per segni solamente una crucella, e in coppa a croce appena si leggeva Esposito Gennaro Netturbino. Guardando la coppena mi faceva, sto porto senza manco una lumina. Questa è la vita, in capo a me pensava, chi ha avuto tanto e chi non aveva niente. Sto povero Maronna si aspettava, che pure al lato mondo era paziente. Mentre fantasticava sto pensiero si era già fatto quasi mezzanotte e i rumanetti chiusi, prigionieri, morte paure, annanzi ai canalotti. Tutto hanno tratto che vega lontana, due ombre avvicinarsi a parte mia, pensai sto fatto a me mi pare strana, sto vescitato, dorme, o è fantasia? Ada che fantasia, ero marchese, co tuba, a caramella e co pastrana. Chi l'ha da presa il suo brutto arnese, tutto fedente con una scopa a mano. E chi di certamente è Don Gennaro, o morto poverino, o scopatore. In questo fatto non ci vedi chiaro, sono morto a se ne dire a quest'ora. Ma, potevano stare a me quasi lu palma, quando marchese si fermai e botte, sa vote, e tomo, calmo, calmo, dicette a Don Gennaro, giovanotto, vorrei sapere da voi, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellir per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellite nella spazzatura. Ancora oltre, sopportare non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa dopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia, io non avessi fatto questo torto, mia moglie è stata a fare sta fessaria, io che poteva fare, io ero morto, se io fosse vivo va farmi contente, pigliasse la casciolella che è qua tosse e proprio voi in questo momento me ne trasessero in denata fosse. E cosa aspetti, o turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato avrei già dato piglia alla violenza. Fama a breviglia sta violenza, a verità marché mi sono scucciato e te sentì, e si perde la pazienza mi scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma gli decrete adesso, non oddio, che addinto vuoi capire che si mi uguale, morte si tu e morte so pure io, ognuno come nato è tale e quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi reali? Tu qua Natale Pasca Epifania, tu vuoi mettere un capo in da cervella che stai malato ancora in fantasia? A morto, sai che è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo. Trasenne sto cancello ha fatto punta che ha perso tutta la vita e pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora questo conto. Perciò, stamma a sentì, non fu restiva. Supportami vicino, che t'importa? Sti pagliacciati fanno solo i vive, noi siamo serie, appartenimmo a morte. Porca miseria.